pochi si sono chiesti, non so se voi, pochi si sono chiesti cosa ci facessero Cofferati, D'Alema e Fassino al funerale di Giovanni Agnelli. Eppure era una domanda, lo ammetterete, che meritava di essere posta. Nessuno di loro, per quel che mi risulta, era in rapporti d'amicizia con il defunto, o aveva particolari obblighi o relazioni con la sua famiglia, né si poteva spiegare la loro presenza come un obbligo ex officio, nei termini di una doverosa partecipazione alle esequie di una personalità pubblica. Il presidente onorario della Fiat, per quanto noto e ammirato nell'intero paese, non era, in senso stretto, una personalità pubblica. Visto che quella di senatore a vita è una carica essenzialmente onoraria e onorifica, delle cui prerogative oltretutto lo scomparso, a differenza di altri, non abusava. Né mi sembra si possa parlare, come pure se fatto, di una sorta di commosso riconoscimento della correttezza e della lealtà dell'avversario, perché, a parte il fatto che quella dell'ossequio all'avversario leale è una leggenda che alligna più nei romanzi di cappa e spada che nel mondo della politica, nessuno dei tre poteva aver dimenticato, almeno mi auguro che nessuno dei tre avesse dimenticato, la spregiudicatezza con cui in tutti questi anni la dirigenza della Fiat ha condotto la sua battaglia contro le organizzazioni dei lavoratori e i partiti politici ad esse vicini. La lotta di classe, se vi permettete di continuare a utilizzare questo concetto vetusto, la lotta di classe non è un pranzo di gala, ma nei paesi democratici le relazioni industriali dovrebbero essere improntate a un certo numero di regole cui non sempre i signori dell'automobile si sono attenuti. Eppure vanno lì gli uomini che impersonano quanto si dice il passato, il presente e il futuro della sinistra. Erano lì insieme a buona parte del loro stato maggiore, a quello dei partiti alleati vicini, in compagnia delle più alte autorità dello Stato, dei vertici aziendali, di una quantità di persone più o meno degne e costrette a fare atto di presenza, perché nei riti di questo tipo si estrinsecano dei rapporti sociali da cui non sempre si può prescindere. Erano lì ad ascoltare con punti le cortesi banalità pronunciate dal cardinale arcivescovo e a manifestare un lutto che non si capiva proprio perché dovessero sentire, al di là del doveroso senso di perdita che ogni persona civile prova o dovrebbe provare per la scomparsa di un altro, perché nessun uomo è un'isola naturalmente e non bisogna mai chiedersi per chi suona la campana, non ci piove, ma poi per un motivo o per l'altro i funerali dei ricchi e dei potenti sono sempre affollati e a quelli dei poveri ignoti non ci va mai nessuno. E di fatto al funerale di Agnelli sono andati in tantissimi, mossi ciascuno da chissà quali motivi suoi e non tutti credo necessariamente deplorevoli, chi dalla curiosità, chi dalla devozione, chi dallo snobismo sociale, chi dal semplice gusto di esserci, ma accomunati comunque tutti da un senso dell'ossequio che si tingeva nobilitandosi con i colori dell'ammirazione. Del resto l'ossequio e l'ammirazione hanno rappresentato la cifra dominante, se non esclusiva, del giorno dei funerali e della buffata mediatica che li ha preceduti e seguiti. Anzi, lo zelo degli incensatori è stato a ben vedere tanto e tale e si è librato così manifestamente sopra le righe da far sì che molti si siano chiesti perplessi se non fosse per avventura un po' esagerato. Avete notato anche voi come a tanta abbondanza di lodi non sempre corrispondesse una motivazione convincente, come l'eccellenza dell'avvocato sulla stampa e in televisione sia stata più spesso affermata che illustrata nei dettagli. E si capisce anche. Non era facile dipingere come un colosso intellettuale un pilastro della tradizione umanistica, un uomo che, oltre a dispensare battute piuttosto sciocche sulla propensione delle cameriere ad innamorarsi e simili, ben di rado si è fatto sorprendere, a un concerto, con un libro in mano, e se collezionava quadri non vale perché quello può essere considerato un buon investimento. Mentre i suoi interessi più vivi vertevano a quanto si è preso sulle partite di calcio e sulle corse di Formula 1, che sono due attività rispettabilissime e care a molte persone da bene, senza però che la cosa in sé sia garanzia di una particolare affidabilità culturale. È ancora più difficile naturalmente rappresentare come un mago del management un imprenditore che, avendo a suo tempo ricevuto dalle mani dell'ingegner Valletta un'azienda seria, vitale, sana, padrona assoluta del suo mercato, e si ho parlato, se non ho capito male, del quinto gruppo automobilistico al mondo, l'ha lasciata, se non proprio ridotta al tracollo, come minimo ridotta al lumicino, e in stato di sorveglianza speciale da parte delle banche creditrici, alla merce delle più ambigue e impreviste cordate che la fantasia dei finanzieri nazionali e ultranazionali riesca ad immaginare. Non sarà stata tutta colpa sua, figuriamoci. I tempi cambiano, i mercati anche, la cultura industriale si evolve, ma è questo il punto. Nel senso che di questa evoluzione non sembra che l'illustre defunto abbia saputo, come dire, tenere completamente il passo. E il giudizio ovviamente va formulato tenendo presente quanto in termini di politiche e di risorse è costata alla comunità nazionale l'eterna crisi della Fiat. Per cui, se oggi la famiglia, con la F maiuscola mi raccomando, se oggi la famiglia sembra mantenere potere e ricchezza, ed è convinta di poterli mantenere ritirandosi, guarda un po', dal settore dell'automobile, e se l'azienda che di questa ricchezza e di questo potere avrebbe dovuto essere la fonte e l'origine se ne va allegramente a rotoli, beh, è difficile sfuggire all'impressione che l'avvocato e i suoi, senza offesa, abbiano ricevuto un po' di più di quanto abbiano saputo concretamente dare. Questa d'altronde è la legge base del capitalismo, un sistema per cui è normale che i pochi si arricchiscano a spese dei molti, e non si vede perché il loro caso avrebbe dovuto fare eccezione. A cambiare, si intende, non sono state solo la cultura industriale e il mercato automobilistico. Nel rimescolamento degli ultimi anni si sono trasformati, se non i valori di fondo del sistema produttivo che restano sempre quelli, almeno i modi con cui si è soliti percepirli. E per cui è stato possibile che quella che una volta incarnava l'immagine del padrone per eccellenza, con tutto quanto di negativo questa connotazione comportava, perché i padroni, nell'immaginario di un tempo, erano considerati in quanto sottratti al bisogno della gente un po' dissoluta, o come minimo esente dagli obblighi di frugalità, laboriosità e rettitudine morale che si esigevano in forme diverse dalle classi lavoratrici e dalla borghesia produttiva, no? È stato possibile che costui venisse visto come una sorta di benevola divinità super partes e come qualcuno che, pur facendo come inevitabile i propri interessi, andava considerato se non altro migliore di un Berlusconi, per arrivare al livello zero, no, di questo giudizio. È un paragone in cui certe differenze di stile, come ha notato unico tra i commentatori Adriano Sofri, sono state forzate fino a sembrare vere e proprie differenze di qualità. Ma per chi delle differenze di stile non si preoccupa, anche perché sa quanto dipendono in ultima analisi dalle tecniche di comunicazione, era un paragone che non aveva ragione di essere. È probabile che i due personaggi non avessero l'uno per l'altro una gran simpatia, e se non altro per via del noto principio che non ammette la presenza di troppi galli nello stesso ridotto pollaio, ma questo non esclude la loro appartenenza alla stessa classe e, in fondo, alla stessa tipologia umana. Di fatto, quando è stato necessario, hanno sempre saputo trovare un accordo profittevole per tutti e due. E allora, cosa ci facevano gli esponenti della sinistra al funerale di Agnelli? Beh, è abbastanza ovvio. Manifestavano il proprio rifiuto, o se preferite la propria incapacità, di concepire la dialettica sociale secondo quei vecchi modelli. Erano lì a seppellire, non che l'avvocato, la contraddizione tra capitale e lavoro, o più modestamente la contrapposizione tra quei lavoratori che formano ancora la maggior parte del loro elettorato e i padroni. Avevano avuto naturalmente le loro buone ragioni, non è la sede questa per metterlo in discussione, ma visto che quel funerale è stato organizzato come una sorta di trionfo postumo, a me, che ho una formazione classica, la loro presenza ha ricordato un po' quella dei capi dei popoli vinti ai trionfi dei generali antichi, e non obiettatemi che, a differenza di Vercingetorix al trionfo di Cesare, nel Duomo di Torino Fassino, D'Alema e Cofferati c'erano andati di loro spontanea volontà e che nessuno li aveva costretti. E questo appunto è il problema. Earlier, and I was telling you, it's all about life. I feel like life is really just like braided hair, cause it's got like twists. You know about braiding? Like twists, you know.